ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Martin tentò invano di far recedere Brissenden dalla decisione di non far pubblicare la poesia effemera. Gli disse che il suo odio per le riviste era eccessivo e fanatico e che quel suo comportamento era migliaia di volte più riprovevole di quello del ragazzo che bruciò il tempio di Diana ad Efeso. Sotto la tempesta di accuse, Brissenden sorseggiava soddisfatto il suo Toddy, continuando ad affermare che tutto ciò che Martin diceva era vero, con un'unica eccezione, quello che riguardava gli editori delle riviste. L'odio che Brissenden provava per loro non conosceva limiti, e quando Martin iniziò a denunciare gli errori di quella categoria, l'altro si mostrò sempre più duro di lui nel giudicare. «Vorrei che tu me la battessi a macchina», gli disse Brissenden. «Sai farlo migliaia di volte meglio di qualsiasi stenografo. E ora lascia che ti dia qualche consiglio». Estrasse da una delle tasche esterne del soprabito un voluminoso manoscritto. «Ecco qua il tuo La vergogna del sole. L'ho letto non una volta, ma due, tre volte. Ed è il complimento più alto che possa rivolgerti. Dopo quello che hai affermato di Efemera, non dirò nulla tranne questo. Quando La vergogna del sole sarà pubblicato, avrà grande successo. Darà inizio a un dibattito che ti farà guadagnare migliaia di dollari in sola pubblicità». Martin rise. «Suppongo che come prossimo consiglio mi dirà di inviarlo a qualche rivista». «Assolutamente no, almeno non se vuoi vederlo pubblicato. Offri il tuo saggio alle case editrici di prima categoria. Può darsi che qualche lettore sia abbastanza pazzo o ubriaco da dare un parere favorevole sul tuo lavoro. Tutta la sostanza che c'era in loro, la loro carne, è stata distillata dall'alambicco della mente di Martin Eden e riversata in La vergogna del sole. Un giorno Martin Eden sarà famoso e buona parte della sua fama si baserà su questo saggio. Così è necessario che tu gli trovi un editore. Prima lo trovi e meglio è». Brissenden andò a casa tardi quella notte. Proprio mentre stava salendo sul primo gradino del tram, si girò all'improvviso verso Martin e gli mise in mano un piccolo pezzo di carta, tutto accartocciato. «Ecco, prendilo», gli disse. «Oggi sono stato alle corse e ho avuto la dritta giusta». La campanella suonò e il tram si mise in moto, lasciando Martin a fare ipotesi sulla natura di quel foglietto sgualcito e sporco che stringeva nella mano. Tornato nella sua stanza, lo distese e scoprì che era una banconota da $100. Martin non si fece scrupolo ad usarla. Sapeva che il suo amico era ricco e sapeva anche, con estrema certezza, che il giorno in cui avesse avuto successo avrebbe potuto restituirgli quella somma. La mattina seguente Martin saldò tutti i suoi debiti e diede a Maria 3 mesi anticipati di affitto e riscattò tutti gli oggetti che aveva impegnato al banco dei pegni. Poi comprò un regalo di nozze per Marian e dei regali più semplici adatti al Natale per Ruth e Gertrude. E infine, utilizzando ciò che restava in bilancio, guidò l'intera tribù dei Silva a Auckland. Era in un anno di ritardo nel mantenere la promessa, ma comunque la mantenne. Anche l'ultimo dei Silva, compresa Maria, ebbe il suo paio di scarpe e Martin comprò anche trombette e bambole, giocattoli di vario genere, pacchi e sacchetti di caramelle e noccioline che riempirono le braccia di tutti i Silva fino a straripparne. Martin, con quella straordinaria processione alle calcagna sue e di Maria, marciò in una pasticceria per comprare il più grande bastoncino di zucchero mai esistito. Allora che incontrò Ruth e sua madre. La signora Morse si scandalizzò. Anche Ruth, che dava alle apparenze una certa importanza, si sentì ferita. Il suo amato, fianco a fianco con Maria, alla testa di un esercito di straccioni portoghesi? Ah, questo non era proprio un gran bel vedere. Ma non fu questo a ferirla, bensì qualcosa che le apparve come una mancanza di orgoglio e di rispetto verso se stessi. Inoltre, e soprattutto, Ruth lesse in quell'incidente l'impossibilità per Martin di separarsi dalle sue origini operaie, origini che già in se stesse erano un marchio negativo, ma sbandierarle senza vergogna in faccia al mondo di Ruth, era veramente troppo. La lunga intimità tra lei e Martin, nonostante il fidanzamento fosse stato mantenuto segreto, aveva fatto nascere dei pettegolezzi. E nel negozio c'erano alcuni conoscenti dei Morse intenti a sbirciare il suo amato e il suo seguito. Ruth non possedeva la spontanea generosità di Martin e non poteva sollevarsi oltre il suo ambiente. Era stata ferita nel vivo e la sua natura sensibile tremava di vergogna. E così, più tardi, quello stesso giorno, quando Martin andò a casa dei Morse, il regalo che aveva comprato per lei restò nella tasca della giacca, in attesa di un momento più propizio per essere consegnato. Ruth, in lacrime, lacrime rabbiose, appassionate, fu una rivelazione per Martin. La vista della sua sofferenza lo convinse di essersi comportato come un bruto. Eppure, nella sua anima, lui non riusciva a vederne né il come né il perché. Non gli passava neppure per la testa di vergognarsi delle persone che conosceva. Il fatto di portare i Silva in giro per le compere di Natale non poteva, almeno così sembrava a Martin, significare una mancanza di rispetto verso Ruth. D'altra parte, dopo che la ragazza gli ebbe spiegato il suo punto di vista, a lui parve di comprenderlo, e però lo giudicò una debolezza femminile, di quelle che affliggono tutte le donne, anche le migliori. Ever find you? I've been waiting so long, but now your trouble's behind you. Time is hurrying on, and all that I want is save me a Saturday night. Some room at your table, slip into your heart if I might, stay just as long as I'm able. Baby, save me Saturday night. Someone you count on, sure, it's hard to believe, but try, just keep me around. I'm yours, I just wanna be wherever you need me, and save me a Saturday night. Leave me some room at your table. I won't slip into your heart if I might, and stay just as long as I'm able. Baby, save me Saturday night. Vera feccia, fu la proposta che Brissenden fece a Martin in una sera di gennaio. Avevano cenato insieme a San Francisco e si trovavano all'imbarco del traghetto diretti ad Auckland, quando Brissenden fu preso dal desiderio di mostrare all'amico la vera feccia. Si girò e attraversò la banchina, un'esile ombra in un soprabito svolazzante inseguita da Martin che arrancava per riuscire a stargli dietro. In un negozio di liquori all'ingrosso, Brissenden comprò due damigiane da un gallone di porto invecchiato e, tenendone una sotto ogni braccio, si imbarcò su uno dei tram di Mission Street, sempre con Martin alle calcagne, a sua volta caricato di diverse bottiglie di whisky da un quarto. «Se Ruth mi vedesse in questo momento», fu il pensiero di Martin, mentre si chiedeva che cosa potesse mai essere la vera feccia. «Può darsi che non ci sia nessuno, eh?» lo avvertì Brissenden quando scesero dal tram, girando subito dopo a destra per immergersi nel cuore del ghetto operaio a sud di Market Street. «Nel qual caso ti perderesti quello che stai cercando da così tanto tempo. E che cosa diavolo è?» chiese Martin. «Uomini, uomini intelligenti, al contrario di quelle non entità ciancianti in compagnia delle quali ti ho trovato nella tana di quel bottegaio. Tu leggi davvero i libri e per questo ti sei ritrovato solo. Bene, stasera ho intenzione di mostrarti altri uomini che leggono davvero, così non ti sentirai più solo. Non che io mi appassioni alle loro eterne discussioni», aggiunse Brissenden alla fine di un isolato. «Non sono interessato alla filosofia dei libri, ma tu troverai queste persone intelligenti, non dei maiali borghesi. Ma sta attento, quando iniziano a discutere su un qualsiasi soggetto, ti tirano via la pelle a furia di parole». «Spero che Norton ci sia», ansimò un poco più tardi, opponendosi al tentativo di Martin di sollevarlo dal peso delle due damigiane. «Norton è un idealista, un uomo di Harvard, memoria prodigiosa. L'idealismo lo ha portato ad abbracciare la filosofia anarchica e la sua famiglia l'ha buttato fuori. Il padre è presidente di una ferrovia ed è multimilionario, ma il figlio fa la fame a Frisco stampando un foglio anarchico per $25 al mese». Martin non aveva idea di dove Brissenden lo stesse portando. Conosceva poco San Francisco e per niente la zona sud di Market Street. «Continua», Martin incitò l'amico. «Parlami di loro. Cosa fanno per vivere? Perché si trovano qua?» «Spero che anche Hamilton ci sia». E Brissenden si fermò per riposare un po'. «In realtà si chiama Strawn Hamilton. Doppio cognome, capisci? Proviene da un'antica famiglia del sud, ma è una specie di barbone. L'uomo più pigro che io abbia mai conosciuto, anche se fa l'impiegato, o almeno ci prova, nel negozio di una cooperativa socialista per $6 la settimana. ma è un vagabondo convinto. E vagabondando è arrivato in città. L'ho visto passare un'intera giornata seduto su una panchina senza mangiare un solo boccone. E la sera, quando l'ho invitato a cena, un ristorante, due isolati più là, mi sono sentito rispondere: «Troppa fatica, vecchio mio, perché invece non mi compri un pacchetto di sigarette?» Era un seguace di Spencer, come te, fino a quando Christ non l'ha trasformato in un sostenitore del monismo materialistico. Se riesco, lo farò parlare di questo. Norton è un altro monista, solo che, secondo lui, esiste unicamente lo spirito. Ma è ben capace di rimettere in riga Christ ed Hamilton. «Chi è Christ?» chiese Martin. «Il proprietario della stanza dove stiamo andando. In passato professore, licenziato dall'università». «Ah, la solita storia. Una mente tagliente come l'acciaio, si guadagna da vivere all'antica. Una volta che era davvero messo male, ha fatto il fachiro da strada. Ah, privo di scrupoli! Deruberebbe un cadavere del sudario, qualsiasi cosa! Ma la differenza tra lui e la borghesia è che lui ruba senza illusioni. Parlerà di Nietzsche, di Schopenhauer o di Kant, o di qualsiasi argomento, ma l'unica cosa in questo mondo che gli interessa veramente, Mary compresa, è il suo monismo. Eccoci arrivati!» E Brisinden appoggiò le damigiane nell'ingresso che immetteva alle scale per riprendere fiato prima della salita. Tradizionale edificio d'angolo a due piani, con un bar e una drogheria a pian terreno. «La banda vive qui. Hanno il piano superiore tutto per loro, ma Christ è l'unico ad avere due stanze. Andiamo». Non c'erano lampade accese sul pianerottolo del secondo piano, ma Brisinden calpestava quella densa oscurità come fosse stato il fantasma che da secoli infestava quella casa. Si fermò per parlare con Martin. «C'è un altro tipo, Stevens, un teosofo. Una volta lanciato riesce a fare una gran bella confusione. Al momento fa il lavapiatti in un ristorante. Ah, gli piacciono i sigari. L'ho visto mangiare polpettoni fatti di avanzi in ristoranti da 10 centesimi al pasto e poi spenderne 50 per un sigaro. Ne ho un paio nella tasca, nel caso dovesse comparire». Brisinden avanzò attraverso l'oscurità finché un filo di luce non segnalò la presenza di una porta che un colpo di nocche ed una risposta fecero aprire. Martin si ritrovò a stringere la mano di Christ, un bell'uomo bruno dai denti bianchissimi, un paio di baffi neri ricadenti e gli occhi scuri, luminosi e grandi. Mary, una giovane donna bionda e matronale, stava lavando i piatti nella piccola stanza sul retro che serviva da cucina e da sala da pranzo. L'altra stanza svolgeva le funzioni di camera da letto e soggiorno. Sopra le loro teste c'era il bucato della settimana, appeso in festoni così bassi che Martin all'inizio non vide i due uomini intenti a chiacchierare in un angolo. I due accolsero Brissinen e le sue damigiane con esclamazioni di gioia e Martin, al momento della presentazione, scoprì che erano Andy e Perry. Si unì a loro e ascoltò con attenzione la descrizione di un combattimento a premi al quale Perry aveva assistito la sera precedente. Nel frattempo Brissinen, in un'aura di gloria, si immergeva nella preparazione dei toddy e nella distribuzione di vino e di whisky e soda. Quando ordinò «Vai a prendere il clan!», Andy si allontanò per chiamare gli altri inquilini. «Siamo fortunati. La maggior parte del clan è a casa», sussurrò Brissinen a Martin. «Ci sono sia Norton che Hamilton. Vieni, che te li presento. Stevens, invece, non c'è, almeno così ho sentito. Se mi riesce, voglio proprio farli discutere sul monismo. Aspetta che si bevono qualche bicchiere e allora sì che si scalderanno». All'inizio la conversazione non fu particolarmente sostanziosa, ma ciononostante Martin non poté evitare di apprezzare l'agile gioco di quelle menti. Quegli uomini possedevano delle opinioni proprie, anche se spesso contrastanti, eppur, essendo astuti e svegli, non erano superficiali. Martin si accorse subito che ognuno dei presenti seguiva nei suoi ragionamenti le correlazioni che percorrono tutto il sapere, qualsiasi fosse l'argomento di cui si stava parlando, e che ognuno di loro aveva una concezione ben sedimentata della società e del cosmo nella loro totalità. Nessuno aveva imposto le proprie idee a questi individui. Erano tutti dei ribelli di un tipo o di un altro e le loro labbra non pronunciavano insulsaggini. Mai a casa dei Morse Martin aveva ascoltato discutere un ventaglio così incredibilmente ampio di argomenti. Sembrava che il tempo fosse l'unico limite ai possibili oggetti delle passioni di quegli uomini. Passavano dal nuovo libro della signora Humphrey Ward all'ultima commedia di Shaw, attraverso il futuro del teatro, fino a evocazioni di Catherine Mansfield. Apprezzavano o criticavano gli editoriali del mattino, saltavano dalla condizione dei lavoratori in Nuova Zelanda a Henry James, continuavano con le tecnologie tedesche in Estremo Oriente e gli aspetti economici del pericolo giallo, litigavano sulle lezioni svolte in Germania e sull'ultimo discorso di Bebel, per poi fermarsi sulla politica locale, sugli ultimi progetti e scandali dell'amministrazione del Partito Laburista, sulle leve che in quel momento venivano manovrate per provocare uno sciopero tra i marinai. Martin fu colpito dalle conoscenze che quegli uomini possedevano. Sapevano cose che non si trovavano stampate sui giornali. I fili, le leve e le mani che facevano ballare i burattini di nascosto. Con grande sorpresa di Martin, anche la ragazza, Mary, prendeva parte alla conversazione, mostrando un'intelligenza incontrata in ben poche delle donne che lui aveva conosciuto. Parlò con lei di Swinburne e Rossetti, e dopo la giovane lo affascinò conducendolo lungo alcuni sentieri laterali della letteratura francese. Il momento di Martin venne quando Mary difese Metternich, e allora lui poté mettere in azione le tesi accuratamente meditate ed esposte in La vergogna del sole. Nel frattempo, diversi altri uomini si erano accomodati nella stanza e l'aria era diventata densa di fumo. Fu allora che Brissenden sventolò il drappo rosso davanti al toro. «Carne fresca per i tuoi denti, Kreis», disse. «Ecco qui un tenero giovane che ha per Herbert Spencer l'ardore di un innamorato. Fai di lui un'echelita, se ci riesci». Kreis sembrò risvegliarsi e lampeggiare come qualcosa di metallico, di magnetico, mentre Norton guardava Martin con simpatia, con un sorriso dolce e femminile, come per dirgli che sarebbe stato protetto. Kreis puntò direttamente su Martin, ma a poco Norton si intromise, finché lui e Kreis si ritrovarono presi in una battaglia personale. Martin ascoltava e si sarebbe volentieri sfregato gli occhi. Era impossibile che stesse accadendo, soprattutto nel ghetto operaio a sud di Market Street. In quegli uomini i libri erano vivi, li facevano parlare con passione e entusiasmo, infiammati da uno stimolo intellettuale come altri uomini lo sono dall'alcol e dalla rabbia. Ciò che Martin ascoltava non era più la filosofia dell'arida parola stampata, scritta da semidei quasi mitici come Kant e Spencer. Era una filosofia vivente, dal sangue caldo, incarnatasi in quei due uomini al punto tale che ora i tratti di quella disciplina erano alterati dalla passione. Di tanto in tanto arrivava qualcun altro e tutti seguivano la discussione, curiosi e attenti, mentre le sigarette fumavano tra le loro dita. Non aveva mai attratto Martin, ma il modo in cui Norton lo esponeva fu una rivelazione. L'intelletto di Martin era solleticato dal fatto che l'idealismo potesse essere corretto e accettabile dal punto di vista della logica. Al contrario, proprio questo sembrava sfuggire a Kreiss o Hamilton, i quali deridevano Norton, definendolo un sostenitore della metafisica. E lui rivoltava quella stessa accusa contro di loro. I termini «phenomenon» e «noumenon» erano rilanciati avanti e indietro. Kreiss ed Hamilton accusavano Norton di spiegare la coscienza per mezzo della coscienza stessa, e Norton, a sua volta, li accusava di essere dei sofisti, di risalire dalle parole alla teoria, invece che dai fatti alla teoria. Kreiss ed Hamilton inorridirono. Il principio fondamentale del loro metodo di ragionamento consisteva proprio nel muoversi dai fatti e nel dare nome a quei fatti. Quando Norton si mise a vagabondare tra i labirinti di Kant, Kreiss gli ricordò che i piccoli filosofi tedeschi, una volta morti, vanno tutti ad Oxford. Martin si abbracciava le ginocchia e si esaltava di tutte quelle parole. Ma era arrivato il tempo di prendere l'ultimo traghetto per Oakland e Brissenden e Martin sgattaiolarono via, lasciando Norton al suo discorso, mentre Kreiss ed Hamilton aspettavano solo che finisse per avventarsi su di lui come una coppia di cani da caccia. «Mi hai fatto intravedere il paese delle fiabe», disse Martin sul traghetto. «Incontrare persone simili rende la vita degna di essere vissuta. Ho la mente tutta sottosopra. Non ho mai apprezzato l'idealismo prima di questa sera. Eppure non riesco ancora ad accettarlo. So che resterò sempre un realista. Io sono fatto così, immagino, ma mi sarebbe piaciuto rispondere a Kreiss e ad Hamilton, e credo che avrei un paio di cose da dire anche a Norton. Non mi sembra che siano riusciti a scalfire le tesi di Spencer, eh? Sono eccitato come un bambino che è stato al circo per la prima volta. No, devo proprio leggere qualche altra cosa. Però non credo che sia possibile confutare Spencer. La prossima volta voglio proprio partecipare anch'io». Ma Brissenden si era addormentato. Il respiro affannoso, il mento seppellito nella sciarpa e appoggiato sul petto incavato, il corpo, avvolto nel lungo soprabito, tremava per le vibrazioni dei motori. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it